Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla 13ª puntata dedicata alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di sospensione dell'incredulità, o suspension of disbelief, come l'hanno battezzato i nostri amici anglosassoni, e di come essa costituisca una specie di patto non scritto che l'autore fa con il lettore, tanto più importante quanto è più fantastico il genere letterario. Oggi invece voglio iniziare a esplorare con voi il mondo della pubblicazione, sia quella classica tramite editore, che l'autopubblicazione, che negli ultimi anni si sta diffondendo a macchia d'olio. Partiamo da una considerazione: sia che si sia dei novelli Dante Alighieri, sia che si sia degli illetterati, arrivare a pubblicare un editore medio-grande è difficilissimo. Se si è letterati, ovviamente, cioè un bene, è l'unico modo di arrivare alla pubblicazione e essere già molto famosi. In quel caso il libro probabilmente non lo scriveremo noi, ma un ghostwriter, e il pubblico non lo comprerà per il suo valore letterario, ma per motivi tutto diversi. Se si è invece molto bravi, il problema è riuscire a catturare l'interesse di una casa editrice che, proprio in quel momento, ha bisogno di un romanzo come il vostro. Dire che è improbabile è usare un eufemismo, e anche usando un ottimo agente letterario bisogna prepararsi a lunghe attese, spesso vane e a cocenti delusioni. Purtroppo il mercato editoriale italiano è asfittico e ci sono pochi lettori e molti generi sono poco diffusi, oppure come il fantasy sono appannaggio di autori stranieri. Questo non accade necessariamente per un'esterofilia dei lettori, che pure esiste e spesso è pure giustificata, ma anche perché per una casa editrice spesso è molto meno costoso acquistare i diritti di un'opera già pubblicata in tutto il mondo e farla tradurre, che sobbarcarsi l'onere di selezionare nuovi autori e promuoverli. L'autopubblicazione è nata proprio per superare questo scoglio e cercare di tirare una linea che parte dagli autori e arriva ai lettori, scavalcando del tutto le case editrici. Ovviamente questo ha molteplici pro e contro, che vedremo però nella prossima trasmissione. Va bene, anche per oggi siamo giunti alla fine. Possiamo passare alla lettura della 13ª puntata del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 13. Shaltul, l'avvocatore, procedeva a passo spedito per i corridoi della cittadella. Giunse un enorme portone di metallo presidiato da due guardie armate. Prima ancora che avesse il tempo di fermarsi, i due si precipitarono ad aprirlo, facendosi ossequiosamente di lato. Senza degnargli poi di uno sguardo, si inoltrò nello stretto passaggio scavato nella viva roccia vulcanica. Il terreno sdrucciolevole era inclinato verso il basso e la temperatura saliva a ogni passo. Si stava avvicinando al centro del vulcano che torreggiava sulla cittadella. Laggiù, protette dalle viscere della montagna e dal guardiano, teneva le sue cose più preziose. Il suo volto sfigurato fu attraversato da un sorriso che gli scoprì i denti quando sentì un ruggito che sembrava provenire da sotto i suoi piedi. Era talmente basso che avrebbe potuto benissimo essere un tuono o una scossa di terremoto. Ma no, era il demone che da sempre faceva la guardia al tesoro degli evocatori. Il sorriso gli svanì così come era apparso quando rifletté sul fatto che nessuno, neppure lui, da secoli era più in grado di evocare un demone così potente. Le conoscenze si erano perse durante la guerra del buio. E l'unica fonte dove recuperarle era il sigillo, ma il sigillo era indecifrabile. Continuò a scendere veloce, passando accanto alla profonda spaccatura dove era imprigionato il guardiano. Come bramava il sapere che possedevano i suoi predecessori. Le obiezioni che aveva lanciato contro l'esercito divano erano i demoni più potenti che la sua conoscenza era in grado di chiamare e controllare. Ma negli abissi più profondi esistevano esseri di potenza inimmaginabile, che avrebbero ridotto in brandelli qualsiasi necromante o creatura della magia nera. Strinse i pugni e continuò ad avanzare a passo veloce. Giunse di fronte al basso ingresso di una galleria dalla quale provenivano vampate insopportabili di caldo. Stava per entrare quando udì un urlo stridulo seguito da un rumore di legna secca spezzata. Si precipitò all'interno. Una dozzina di evocatori erano posti a uguale distanza l'uno dall'altro e formavano un circolo attorno a un grande pentacolo nero tracciato a terra. All'altezza di una delle punte della stella scritta nel pentacolo, però, mancava una persona. L'attenzione di Shaltul fu attratta da una specie di fagotto rosso-nero che andava sparendo al centro del circolo. Un gigantesco artiglio lo stava trascinando via e in pochi attimi scomparve dentro una pozza nera che sembrava uno strappo nel tessuto della realtà, una finestra verso un mondo diverso. Anche la pozza si richiuse, mentre gli unici evocatori rimanenti si precipitavano qua e là in preda alla confusione più completa e al panico. Sciaturvi del sangue al centro del pentacolo, talmente abbondante e sparso con così grande furia che sembrava avessero sgozzato un animale. E capì. Non era legna secca quella che aveva sentito spezzarsi. Ossa stritolate. Un altro fallimento. Scosse la testa e si diresse verso il leggio di legno nero, su cui era appoggiato il sigillo. Le sue pagine di carta pesante e ingiallita dai secoli sembravano scrutarlo, e il fitto intreccio di simboli pareva irriderlo. Vi posi i palmi delle mani sopra, quasi che il contatto potesse permettere di assorbire la conoscenza arcana per altre vie. Rimase a lungo immobile, il suo unico occhio fisso sulle pagine aperte, ma in realtà perso in riflessioni profonde. Venne interrotto da una voce. «Mio signore, era in rotta. La missione è stata compiuta». Si girò e scrutò il suo consigliere con il capo chino e le mani sottili infilate dentro le maniche della tunica. «Vai avanti. La battaglia della piana desolata si è conclusa senza vinti né vincitori, come prevedibile», continuò il Rot sollevando il capo. «Ma siamo riusciti nel nostro intento. La discendente della linea di sangue ha superato le linee dell'esercito dei negromanti. Ha raggiunto la fortezza della solitudine», chiese Shaltur. Nonostante il suo orgoglio lo spingesse a decifrare il sigillo da solo, i risultati frustranti che continuava a ottenere gli consigliavano di perseguire l'altra via. Il Rot aveva avuto ragione, come sempre del resto. I suoi intrighi stavano ottenendo quello che per l'intero corso della guerra del buio era loro sfuggito. «Non sono in grado di dirlo con precisione. Forse dovresti chiedere al cangiante», suggerì il consigliere. Shaltul, a noi. Si diresse verso il pentacolo nero, ora deserto. Ignorò la pozza di sangue che campeggiava al suo centro e la calpestò con i suoi sandali. Dando le spalle ai Rot, levò le braccia al cielo e mormorò un incantesimo. Era rischioso comunicare con il suo schiavo degli abissi, ma poteva tentare di vedere attraverso i suoi occhi. Di fronte a lui si formò una luminescenza che lentamente prese forma, ricreando una scena tremolante, quasi fosse composta da fumo. Vide un gruppo di persone dai volti indistinti che si erano assiepate attorno a una forma scura riversa per terra. Poi, piano piano, la scena si fece più chiara, i volti più netti. Sembravano essere all'interno di un ambiente molto buio, appena rischiarato da una torcia, la cui luce rossastra oscillava lieve. Una ragazza era appoggiata a una parete, talmente priva di forze da non riuscire neppure a reggersi in piedi. La nera, come appariva debole e impotente in quel momento. Poi lo sguardo del cangiante si posò su un uomo che si stava muovendo. La luce della torcia si posò sulla forma scura che giaceva a terra e Shaltul ebbe la possibilità di vederla. Un uomo anziano, con capelli e barba lunghi e incolti, legato al muro con catene di metallo lucido. Linerus, il mago della parola, la chiave della sua vittoria. Il vecchio giaceva inerte come un fagotto di stracci. Il tanfo di urina e di escrementi che aleggiava nell'aria era insopportabile. Tom e Arla si inginocchiarono accanto a lui e gli sollevarono la testa con delicatezza. Aveva gli occhi chiusi e il mento sporco di un liquido ormai essiccato, forse la broda che gli era stata data il giorno prima. Non erano neppure sicuri che respirasse ancora. Arla si alzò di scatto e si diresse verso il portone della cella, al quale erano ancora appese le chiavi che avevano sottratto alla guardia. Tra queste, una di forma singolare brillava della stessa lucentezza delle catene che bloccavano Linneus. La infilò in una sottile fessura e liberò il suo braccio destro. Ripeté l'operazione con l'altro braccio e con le gambe, mentre Tom sorreggeva il vecchio per evitare che si facesse male. Lo fecero sdraiare sulla schiena e Tom si chinò sul suo petto per sentire se il cuore batteva ancora. Ci volle qualche secondo prima che avvertisse un palpito leggero e incerto come il volo di una farfalla. Il vecchio era vivo. Si scrutarono negli occhi, indecisi. Diana era appoggiata al muro, Linneus era riversa a terra. Nessuno dei due poteva aiutare l'altro. Tom alzò gli occhi verso Eliel, che era rimasto con la spada in mano accanto alla porta. I suoi occhi turchese e spendevano nel buio della cella, mentre lui li spostava alternativamente su Diana e Linneus. Sembrava innaturalmente pallido. Dovevano uscire di lì, veloci. Appena si fossero accorti della prolungata assenza della guardia dello schiavo, qualcuno sarebbe sceso nei segreti a controllare. In quel momento dovevano essere già fuori. «Aiutami a sollevarlo», disse Tom a Arla. «Dovremmo portarlo appeso». Lo sollevarono. In quel momento Tom si accorse di quanto era leggero. Sembrava un bambino. Il movimento dovette riscuotere Linneus, che socchiuse gli occhi. Era il primo segno di vita che manifestava da quando erano entrati in una cella. «Bama», mormorò il vecchio, appena udibile. «Perché continui a tormentarmi? Non ti rivelerò mai...» Non ebbe la forza di continuare. E la testa, che si era alzata appena dalla mano che la sorreggeva, tornò ad appoggiarvisi. «Calmo, calmo», disse Tom con dolcezza. «Siamo venuti a salvarti». «No!» La voce strozzata uscì dalla gola di Linneus, con la forza di un colpo di tosse. «Risparmi i tuoi inganni, negromante. Il mio corpo è debole, ma la mia mente non è ancora così ottenebrata da essere ingannata». Linerus, maestro, disse con voce dolce Diana, che nel frattempo si era avvicinata barcollando, ho bisogno del tuo aiuto. A quelle parole gli occhi del vecchio si spalancarono. Erano grigi come l'acciaio, e in fondo a essi ancora si scorgeva una traccia della sua potenza antica. Linerus mise a fuoco Diana, poi allungò una mano che le sfiorò il volto in un gesto a metà fra la carezza e il riconoscimento tattile di un cieco. «Per la terra madre!» esclamò, seppure solo con un filo di voce. «Ossidiana, bambina mia!» «Non Ossidiana, maestro!» lo corresse con dolcezza la ragazza, stringendo la mano assuta dalle sue. «Sono Diana, sua figlia. Mi ha lasciato in fascia zio Silvestre tanti anni fa, ricordi?» Linerus non disse nulla. Si limitò a sfilare la mano da quella di Diana ed abbassare con delicatezza la tunica della ragazza in modo da scoprire la falce. Quando vide il segno, le sue guance si colorarono all'improvviso e gli parve giungere una nuova fonte di energia. «Diana!» esclamò con voce più ferma. «Non nutrivo più speranze!» Poi si bloccò guardandolo. Era come se fosse in grado di leggerle dentro. Poi spostò lo sguardo sugli altri presenti, uno alla volta. «Non c'è tempo da perdere», disse infine. «Abbiamo così tante cose da fare, così poco tempo». «Diana sta molto male», disse Tom. «Ho letto quello che hai scritto e l'ho portata fin qui, perché tu possa salvarla». «Non posso farlo, non qui», rispose scuotendo la testa impotente. «Solo i simulacri possono incoronare la nuova nera». «Simulacri?» chiese Arla, esprimendo la sorpresa di tutti. «Non ne ho mai sentito parlare». «Sono le anime delle nere che furono. Il potere oscuro le è nato dentro come un cancro, ma solo loro possono darle l'investitura che permette di controllarlo». «E dove possiamo trovare i simulacri?» Tom sentì cadere la stanchezza su di lui. Pensava che fossero giunti all'epilogo, e invece sembrava che non fosse affatto così. «Dovremmo evocarle». Linerus aggrottò la fronte. «Ma questo non è il luogo adatto, io...» La frase venne interrotta a metà, ma tutti capirono la sua preoccupazione, senza che l'esprimesse a parole. Lui non aveva più la magia. Chi avrebbe compiuto il rituale? Prima che qualcun altro dicesse qualcosa, Linerus fece una cosa strana. Si accostò con la bocca a un orecchio di Tom e gli sussurrò qualcosa. L'uomo lo guardò interdetto, ma poi a noi. «Andiamo», disse infine. «Eliel, chiudiamo lo schiavo nella cella e andiamo via di qui». Il ragazzo non rispose, si girarono verso di lui e videro che era visibilmente pallido. Si era appoggiato alla parete della cella e rimanevano in piedi a stento. Il suo viso era sudato, le palpebre semichiuse velavano gli occhi. «Cos'hai?» gli chiese Diana. «La ferita», rispose con un fio di voce. Sembrava che fosse sul punto di svenire. Ma le brutte notizie erano appena iniziate. Il magazziniere era sparito, doveva aver approfittato della condizione di Eliel per fuggire. I suoi sandali non avevano fatto rumore, lui aveva potuto sdettagliare via senza che se ne accorgessero. Con ogni probabilità stava per dare l'allarme, se non lo aveva già fatto. Il generale Ustia attese che la fiamma verdasse sul braciere prendesse vigore, consumando lo strato di ossa umane sottostante. Un nasebondo odore si sparse nella tenda, ma il suo naso, ormai assuefatto al tanfo di morte e putrefazione che aleggiava dovunque nel regno dei negromanti, non lo percepì neppure. Ustia era nervoso, molto nervoso. Il suo esercito aveva subito forti perdite da parte dei demoni di Shaltul. Un problema relativo, visto che non mancava certo materia prima per rimpinguare le sue file. Ma non se unito al fatto che le sue tattiche non avevano raggiunto gli scopi che si prefiggeva. L'imprevisto uso delle abiezioni, ma anche la velocità dei mastini degli abissi e l'uso intelligente degli incubi, sentiva che sul piano strategico il Roth aveva prevalso, anche se poi sul campo la battaglia si era conclusa più o meno in parità e i confini dei due regni erano rimasti immutati. Vama era convinto che l'enorme numero di creatori dell'oltremondo che gli aveva messo a disposizione sarebbe stato sufficiente per spostare gli equilibri della battaglia, forse dell'intera guerra del buio. Così non era stato, e anzi c'era stato il rischio di un pesante rovescio. Vama era inferocito, lo sapeva già, lo sentiva. Prima di mormorare il rituale, rifletté a lungo e pesò una per una le parole che avrebbe pronunciato. «Ustia!» esordì Vama con la sua voce oscura come la notte, apparendo nei vapori verdognoli. «Sono giorni che non ho notizie del svolgimento della battaglia». «Perdonami, mio signore», il generale si inchinò deferente. «Credevo che le ombre al tuo servizio ti tenessero aggiornato». «Rordu è sparito». Il suo sguardo sembra inchiodarlo anche a così grande distanza. «Mi aspetto che tu mi riferisca di una schiacciante vittoria». Ustia comprese che quello era il momento in cui rischiava di più. Doveva sviare il discorso. «L'orbo aveva molte sorprese in serbo per noi. Ha evocato una grande quantità di abiezioni». Poi continuò rapidamente quando Vama fece per interrompere. «C'era molto potere oscuro al servizio di Shaltul, molto più di quanto ne abbia percepito nelle scorse battaglie». Non seppe come interpretare il silenzio di Vama. Sperò che non fosse il preludio a una condanna. «Il nostro servizio di spionaggio ha con ogni probabilità lasciato avvicinare una persona con un enorme potere oscuro al nostro campo. Forse l'orbo è riuscito a recuperare un po' della sapienza antica. Ustia si accorse subito che la sua tattica era corretta. Bama sembrò elaborare a lungo le parole che gli aveva detto. «È per questo che Rordo è sparito?» chiese infine. «Immagino di sì. Forse sta tentando di capire i motivi del suo fallimento», andò giù duro il generale. Ora che si sentiva più sollevato, perché non approfittare per sferrare qualche colpo basso nei confronti di quella serpe di Rordo, da sempre la sua spina nel fianco più dolorosa? Ma Vama non sembrava ascoltarlo. La sapienza antica era un cruccio che sia lui che Shaltul avevano da sempre. Quello che era andato perduto durante la guerra del buio, di cui rimaneva traccia solo nei sigilli che il nero si era portato via da notturno. Per questo aveva torturato fino allo stremo il mago della parola. Per questo non l'aveva ancora ucciso. Lui era l'ultimo depositario di una conoscenza che schiudeva le porte al potere assoluto. Chi era la persona con questo grande potere oscuro? Poteva essere che l'orbo avesse veramente accesso a conoscenze dimenticato? E dov'era adesso l'orbo? «Scappiamo, presto!» urlò Arla non appena si rese conto che la fuga del magazziniere significava che avevano pochi istanti prima che le guardie si precipitassero giù nelle segrete. Ma la situazione era tutt'altro che semplice. Linerus non aveva neppure la forza di sollevarsi da solo. Diana era lo stremo, e adesso neanche Eliel sembrava stare male. Eppure dovevano fuggire. «Aiuta, Linerus!» disse Tom alzandosi. «Io vado a serrare l'ingresso delle prigioni prima che arrivino le guardie». Arla si mise a correre, sfiorando lo schiavo che piagnucolava e ginocchiato a terra. In un attimo sparì dalla loro vista. Nel frattempo, Diana si era riavvicinata a Eliel e lo aveva aiutato ad alzarsi. Insieme erano usciti barcollando dalla cella. Il ragazzo sembrò subito stare meglio e dopo pochi passi si era ripreso del tutto. Sollevata, Diana ignorò quella stranezza e si girò per vedere se Tom l'aveva seguita. Sentì un urto seguito da un forte tintinnio di metallo sul metallo proveniente dalla cella. Fece per tornare indietro, ma fu prevenuta da Tom, che ne uscì quasi di corsa, con Linerus in braccio come un bambino. Non si dissero nulla, ma Diana individuò una strana luce negli occhi dell'uomo. Non era né il tempo né il luogo giusto per indagare oltre. Sentirono provenire da sopra le scale un clangore di spade, un urlo di dolore e un portone che sbatteva. Poi videro Arla precipitarsi giù, la blusa macchiata di sangue. «Presso le fogne, presto!» gridò loro trafelata. «Non so quanto reggerà il paletto». Percorso lo stretto corridoio e si diresse verso la grata dalla quale erano entrati. Dentro di sé Tom si rendeva conto che si erano cacciati in un vicolo cieco. Ormai la guarnigione era in allarme, non avrebbero mai lasciato andare via il carro senza perquisirlo da cima a fondo. Ma in quel momento l'istinto gli diceva che dovevano fuggire e loro lo stavano facendo. Quando raggiunsero la grata, Arla fece segno a Diana e Eliel di scendere. I due si infilarono nel pertugio, seguiti da Tom, che passò di nero ad Arla. La donna attese che fosse scesa e poi calò giù il vecchio mago. La sua magrezza faceva spavento e sembrava pesare poco più delle sue vesti stracciate. Quando la donna raggiunse il gruppo, si avviarono lungo la bassa galleria maledorante, tentando di seguire la via percorsa all'andata. Non avevano percorso neppure qualche decina di metri quando sentirono un forte vociare provenire dal buio di fronte a loro. Si immobilizzarono e dopo qualche attimo intravisero anche i riflessi di qualche torcia sulle pietre delle pareti. Avevano tagliato la loro via di fuga. D'altra parte era logico. Il magazziniere doveva aver rivelato come erano entrati e come intendevano fuggire. Senza bisogno di dire nulla, si girarono su loro stessi e si avviarono di nuovo verso l'entrata delle prigioni. Si issarono uno a uno su per la scaletta e spostarono un grosso tavolaccio sopra la grata per impedire che i loro inseguitori potessero entrare da lì. Affannati, si guardarono negli occhi. Si erano sigillati in quella che poteva diventare la loro tomba. L'angolo più buio della stanza del comandante della guarnigione che presidiava la fortezza della solitudine fremette. Il militare alzò gli occhi, distogliendoli dalla lettura di una pergamena, infastidito e sorpreso. Poi, quando l'aria stessa sembrò coagularsi e Rordo apparve, il suo volto impallidì. Come poteva Vama essere già a conoscenza del tentativo di liberare il prigioniero? E come aveva fatto a far giungere in uno degli angoli più lontani del suo regno l'ombra più pericolosa? Rordo sorrise guardandolo con lo stesso interesse con cui un serpente scruta la sua preda. Aveva camminato a tappe forzate lungo le caverne naturali che correvano sotto la superficie delle colline. Il buio che regnava incontrastato nelle grotte gli aveva dato la possibilità di spostarsi velocemente anche durante il giorno. Passare attraverso il cancello principale della fortezza era stato un gioco da ragazzi. Sin da quando era entrato aveva sentito l'odore della paura aleggiare tra gli edifici e le guardie. Era bastato ascoltare nascosto fra le pieghe dell'oscurità che stava calando per capire che cosa fosse successo. Qualcuno aveva liberato Linerus. Questo era male. Ma aveva anche sentito che non erano riusciti a fuggire ed erano rinchiusi nelle segrete. E questo era molto bene. «Saluto a te, comandante», sibilò. «Mi inginocchio di fronte a te», si precipitò a rispondere l'uomo, genuflettendosi. sia gloria alle ombre e al loro onnipotente padrone Vama. Si mormora che abbiate avuto problemi con il prigioniero, insinuò Perfido. Terrorizzare le persone era una delle tecniche che usava per esercitare il suo potere. C'è stato un tentativo di fuga, ammise con voce tremula il comandante, ma è tutto sotto controllo. Lordu annuì. Se non avesse avuto fretta di mettere le mani sul gruppo che inseguiva da così a lungo, avrebbe tratto un po' di piacere dallo scorticare vivo quell'ometto pomposo. Fece un cenno e il comandante si precipitò per scortarlo verso le segrete. Dopo pochi minuti giunsero a una stretta scalinata scavata nella pietra, in fondo alla quale c'era una porta corazzata. Alcuni guardi si stavano affannando nel tentativo di sfondare la porta, che per il momento sembrava resistere ai loro sforzi. Alla vista di Lordu si scansarono tutti, creando un corridoio. L'ombra si avvicinò in silenzio e appoggiò una mano su una delle placche metalliche che corazzavano la porta. Poi chiuse gli occhi e cominciò a perdere di consistenza. «Maledizione, non abbiamo scampo!» imprecò Arla ad alta voce. Il portone di accesso alle segrete tremava come scosso da un terremoto. Il paletto di legno conficcato nella pietra scricchiolava ogni urto alzando polvere. Eliel era guardia della grata che stava delle fogne, sulla quale avevano spostato il tavolo che sobbalzava ogni tentativo di aprirla. La situazione stava precipitando. Tom era rimasto in piedi delle scale e gettava di tanto in tanto un'occhiata sconfortata ad Arla e poi a Eliel, senza mai perdere di vista Diana e Linerus che sedevano a terra con la schiena appoggiata alla parete. «Ci cattureranno, vero?» chiese la ragazza con un filo di fiato. «Non c'è altra riuscita». Le parole parvero risvegliare il vecchio, che si aggrappò un braccio di Tom, tirandolo in basso verso di lui. Gli mormorò qualcosa nell'orecchio, poi si abbandonò di nuovo, spossato. Tom si guardò in giro, poi si allontanò verso una parete lontana dalla prigione. Cominciò a tastare una a una le pietre umide e coperte di muschio. Dopo parecchi tentativi a vuoto, una si mosse un po' nella sua sede. Tom spinse, poi tirò, e con un suono sferragliante una porzione della parete ruotò su se stessa, rivelando una stretta scala che saliva verso il buio. «Di qua, presto!» urlò con tutto il fiato che aveva in gola, precipitandosi verso Diana e Linerus. «Ho trovato una via d'uscita!» Arla ed Eliel furono da loro in attimo, abbandonando volentieri i loro inutili presidi. «Dove ci portano queste scale?» chiese Arla, fermandosi dove aveva risalito i primi gradini. «Non lo so», rispose Tom. «Linerus mi ha detto che lo portavano da qui per interrogarlo anni fa. Non so altro, ma penso che sia meglio che rimanere nelle prigioni, no?» Arla non commentò, valutando lo stretto passaggio di pietra e decidendo che era comunque più difendibile dell'ampio corridoio delle segrete. Salirono a lungo, la scala che si avvolse su se stessa molte volte. Arrivarono a una porta socchiusa, aperta la quale si trovarono in un'ampia stanza. La polvere copriva i mobili, gli strumenti dell'aria inquietante che erano appoggiati sopra un grande tavolo. Chiazze brune di sangue antico e rinsecchito macchiavano il pavimento e alcuni schizzi giungevano persino verso i muri. Una libreria piena di tomi voluminosi occupava un'intera parete, mentre di fronte a loro c'era una stretta finestrella. Tom si precipitò a guardare fuori e il suo cuore si strinse. Non si era ingannato, erano saliti troppo. La stanza era almeno 20 metri sopra il livello del terreno e non c'erano altre vie d'uscita. Stava per dire ai suoi compagni che dovevano tornare indietro quando colse una vibrazione nella zona d'ombra dietro la porta. I suoi occhi sgranati misero in allarme Arla, che si girò di scatto. La donna si gettò di peso sulla porta, tentando di chiuderla prima che Lordu potesse entrare, ma era troppo tardi. L'ombra si insinuò all'interno, sfoderando la sua spada nera come la notte. «Bene, bene», ringhiò, guardandosi intorno. «Alla fine sono riuscito a raggiungermi». Arla ed Eliel si posero tra lui e gli altri, le spade sguainate. Anche Tom snodò la spada di Grenen, ma la sua mano tremava senza controllo. Aveva pensato di avere visto tutte le creature più spaventose di Notturnia, ma era ovvio che non fosse così. Qualunque fosse quell'essere, incuteva un terrore folle. Ma era solo questo a provocare il brivido gelido che risaliva dalla lama alla mano e su per il braccio, provocando il tremore? La spada sembrava assorbire le sue energie, e il suo peso gli impediva di impugnarla come avrebbe voluto. Arla ruppe lo stallo e si gettò sul Lordu con un affondo, che sembrava ben piazzato. L'ombra tremolò appena e riapparve un palmo più in là, mandandola fuori il bersaglio. La sua spada scattò come il morso di un crotalo e ferì la donna sul braccio. Solo la sua agilità impedì che il taglio penetrasse a fondo, ma la lama bruciava come se fosse stata di fiamme. Eliel tentò di cogliere Lordu impreparato e meno un fendente che avrebbe spiccato la sua testa dal collo. Una vibrazione e l'ombra svanì di fronte ai suoi occhi e la sua spada si conficcò in profondità nel legno della porta. Un ghigno si fece largo sul viso della creatura, mentre la lama nera affondava nel fianco del ragazzo. Quando si aprì, uno squarcio sulla tunica e una macchia rossa ne bagnò gli occhi slabbrati, un urlo acuto uscì dalla bocca di Diana, quasi fosse stata lei ad essere ferita. Rordu si girò e per la prima volta si rese conto che il possessore del potere oscuro non era un uomo, ma una giovane donna pallida e priva di forza. Snudò i denti affilati in quello che doveva essere un sorriso. Si avvicinò a Diana, ignorando la presenza di Tom, che, pallido e tremante, gli puntava la spada addosso. Fece per allungare la mano verso la ragazza, quando l'aria della stanza parve avvampare. Si immobilizzò. Per la prima volta i suoi occhi, senza pupilla, sembrarono tradire la sorpresa. Si alzò un vento rovente, e gli oggetti sui mobili sul tavolo vennero scagliati contro le pareti. I libri presero fuoco come pile funebri, mentre la consistenza del vento sembrò aumentare roteando come un ciclone attorno a loro. Vennero afferrati da una mano invisibile e la stanza svanì alla loro vista. Tutto attorno a loro divenne buio.